30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Il primo marzo entrerà nel calendario delle festività come il giorno dedicato agli immigrati? È quello che sperano i molti eterogenei organizzatori della manifestazione spontanea dei lavoratori stranieri in Italia, che lo scorso primo marzo hanno scelto di esprimere la propria presenza minacciando un giorno senza di noi. Un giorno dunque senza badanti, babysitter, colf, giardinieri, operai e quant'altro. Per la prima volta i lavoratori stranieri nel nostro paese hanno rivendicato il loro ruolo nella società, senza nascondersi, anzi scendendo per le strade. Buonasera e benvenuti dunque a questo nuovo appuntamento di 30 minuti in cronaca. Allora, questa sera parliamo di immigrazione, parliamo di stranieri, parliamo in realtà soprattutto della società italiana che cambia e che si fa più complessa, sicuramente io dico anche più ricca. Ne parliamo con Ginevra Battistini, giornalista, direttore di un nuovo progetto editoriale che si chiama Mix & Mag. Buonasera Ginevra. Buonasera. E con il suo vice direttore Francesco Bianco, che insegna giustizia internazionale all'Università Statale di Milano. Buonasera. Allora, la prima cosa, io ho detto nel lancio la sensazione che questa manifestazione possa anche avere segnato un punto di passaggio. Tu l'hai seguita, hai partecipato, poi racconteremo perché e in che ruolo, diciamo, Mix & Mag si interessa a queste tematiche, ma la domanda è: davvero qualcosa è cambiato o sta cambiando? Allora, davvero qualcosa è cambiato secondo noi senz'altro, lo dicevi anche tu nell'introduzione, perché per la prima volta gli stranieri sono scesi in piazza a rivendicare i loro diritti e soprattutto rivendicare il diritto ad essere riconosciuti come persone prima di tutto e non soltanto come merce, come diciamo strumento di lavoro. Come dicevi all'inizio, appunto, una manifestazione eterogenea e spontanea, punti di forza che ovviamente poi possono nascondere anche delle debolezze, una vulnerabilità. Il movimento del primo marzo è appena nato e quindi, come tutte le cose appena nate, deve ancora costituirsi e cercare di strutturarsi in maniera da rappresentare una forza di pressione anche sull'opinione pubblica e sulla politica reale. Per noi, senz'altro, è stata un'iniziativa che abbiamo seguito con molto entusiasmo, perché rientra esattamente nell'ottica del giornale di Mixa, e cioè una partecipazione mista, italiani e stranieri insieme. Lo slogan del nostro giornale infatti è italiani e stranieri finalmente a confronto su Mix & Mag. Questo vuol dire che bisogna leggere il fenomeno come una presa di coscienza da parte degli immigrati, ma anche da parte degli italiani che sono interessati a rendere questa società sicuramente più integrata, sicuramente più tollerante, sicuramente solidale, e quindi a riconoscere a queste persone tutta una serie di principi ribaditi peraltro dalla nostra Costituzione e di diritti che sono stati negati. Noi siamo nati, peraltro l'idea del nostro giornale è iniziata, diciamo così, la bozza di questo progetto 2 anni fa, in tempi non sospetti. In questi 2 anni è successo di tutto e quindi noi riteniamo a maggior ragione che questo sciopero, come il nostro giornale, fosse assolutamente necessario. Ecco, Francesco Bianco, dal suo punto di vista è stato un successo questa manifestazione e diciamo in che modo cambia un po' il percorso del rapporto tra gli italiani e i cittadini stranieri in Italia, che peraltro sono un numero molto importante? Sì, sono 4 milioni e 800 mila gli stranieri in Italia, quindi cominciano a diventare molti. È stato un successo perché finalmente gli stranieri hanno capito il loro valore anche economico, no? Si dice spesso vengono qui a rubarci il lavoro, invece si è scoperto che gli immigrati non solo lavorano, fanno lavori che noi non faremo più, ma soprattutto versano molti soldi all'INPS, 6 miliardi e mezzo all'anno, e sono molto giovani, quindi non stanno prendendo le pensioni che ora eroga l'INPS, per appunto. È stato un successo anche perché Semmai le stanno finanziando. Le stanno finanziando, e anche perché l'80% è sotto i 45 anni, quindi sono molto giovani rispetto agli italiani. È stato un successo anche perché è nato in pochi mesi, il primo marzo, ha avuto un tam tam via Facebook, e devo dire che poi anche la stampa tradizionale se ne è occupata più come fenomeno di costume, più che come manifestazione per rivendicare i diritti di quasi 5 milioni di persone. Un numero davvero importante. L'Italia fino a 2 anni fa non c'era nessun problema. ma da quando è nata questa crisi, con gli slogan di alcuni, è finito a diventare un paese razzista. La gente è incazzata e non sa perché è incazzata, se la butta su di noi. Noi siamo la... Ecco, questa non è una grande novità che questo ragazzo racconta. Quindi la rabbia della gente che trova una valvola di sfogo. Ginevra Battistini, una cosa che mi piacerebbe puntualizzare. Questa manifestazione era in qualche modo segnata e dominata dal colore giallo. Tra l'altro è una manifestazione transeuropea. Alcuni l'hanno definita una manifestazione che si è tinta di rosso. Ora, è un movimento identificabile politicamente o è qualcosa di realmente nuovo? Allora, l'intervento che abbiamo sentito adesso di questo ragazzo senegalese l'abbiamo ripreso dalla manifestazione No Razzismo Day, che in realtà è stata fatta 6 giorni dopo, il 1 marzo, il 7 di marzo, sabato 7 marzo. E questo è uno dei contributi, esatto, che troviamo peraltro sul sito di Mixamag. Esatto. Diciamo così, la cosa secondo me estremamente bella della manifestazione era proprio questa cosa di un movimento spontaneo, eterogeneo, come dicevi tu, in cui sentivi proprio la diversità e la ricchezza di queste persone, delle loro storie, delle loro esperienze. Ho parlato con tantissima gente, dalla badante peruviana con il marito domestico, che dicevano: nonostante la contrarietà dei nostri datori di lavoro, noi siamo qua perché ci crediamo, perché è giusto far sentire la nostra voce. Non ho avuto l'impressione, in effetti, per fortuna, che fosse un movimento strumentalizzato in qualche modo. Sicuramente il rischio di una strumentalizzazione c'è, ma il 1 marzo è stata davvero anche una festa in cui la voce degli immigrati è emersa in maniera, secondo me, estremamente corretta. Insomma, il giallo ha realmente dominato, esatto, la scena, esatto, come peraltro dicevamo ha fatto in Europa, perché non è un'attività isolata quella italiana. No, assolutamente, anzi, ricordiamolo che il 1 marzo è un'iniziativa francese e le ragazze, io le chiamo così, del comitato del 1 marzo, in realtà hanno deciso di portare questa manifestazione anche in Italia e quindi di far proprio anche questa iniziativa, che però nasce in Francia, c'è stata anche in Grecia e in Spagna. Sicuramente, ecco, il No Razzismo Day invece aveva un carattere più rosso, questo sì, però voglio dire, se i partiti giustamente abbracciano poi le tematiche dei diritti degli immigrati, dell'immigrazione, letta non soltanto come un problema di ordine pubblico, ma anche come una questione di civiltà e di integrazione, tanto meglio. Ecco, questo ragazzo metteva, come dire, in evidenza una questione anche temporale. Diceva: da 2 anni le cose stanno cambiando, le cose sono cambiate, e citava esplicitamente la crisi economica. Allora, Francesco Bianco, cambia non solamente per gli stranieri, è cambiato per tutti. In che modo questo ha colpito dunque questi quasi 5 milioni di lavoratori stranieri in Italia? Sono stati colpiti ovviamente come gli italiani, anche se poi tutte le statistiche ci dicono che reagiscono meglio rispetto a noi, insomma rispetto agli italiani, perché sanno adattarsi più velocemente ai cambi, sono abituati a vivere anche con poco, sono abituati a soffrire anche di più rispetto a noi, quindi per loro è in qualche modo più semplice. C'è da dire che tra l'altro ci sono dati anche in controtendenza, cioè l'occupazione femminile, che nel 2009 per quanto riguarda le donne straniere è cresciuto del 13,6% nell'anno nero dell'occupazione. Questo si deve soprattutto alla regolarizzazione del settembre scorso delle badanti, insomma, anche se non ci sono dati ancora significativi e concreti su quante siano state regolarizzate. Comunque difficoltà ci sono, infatti stanno diminuendo. L'Istat ci dice che ci sono più stranieri rispetto all'anno precedente, ma la crescita è minore come tendenza rispetto agli anni precedenti, proprio perché sia le politiche, insomma, dei respingimenti, sia la crisi economica spinge gli stranieri a non arrivare in Italia. Abbiamo parlato di lavoratori stranieri e immediatamente, inevitabilmente, di badanti. In questa Italia che cambia, i lavoratori stranieri stanno cominciando un po' a uscire da queste sorte di occupazioni quasi dedicate, quasi esclusive? Assolutamente sì, ci sono molti imprenditori, soprattutto per quanto riguarda il comparto edile, che sono stranieri, ma ce ne sono ormai in ogni settore. Basti pensare che a Milano uno straniero su 4 è laureato e quindi molto spesso apre un'attività propria, e quindi le badanti rimangono comunque il maggior numero di occupati in Italia stranieri, insieme al settore edile e a quello del dell'agricoltura comunque. Ecco, Ginevra Battistini, vorrei parlare un momento dell'iniziativa editoriale. Il web dunque come piattaforma innanzitutto. Il web come piattaforma che ci sta dando delle sorprese straordinarie, devo dire. Io sono affezionata alla carta stampata, ma più lavoro su Mixamag, più mi rendo conto delle potenzialità enormi, al di là della possibilità di inserire video e audio fortissimi, che sono una testimonianza fortissima, molto viva, molto, molto immediata, molto interessante. Abbiamo questo strumento straordinario che è Google Analytics, che ci regala un sacco di soddisfazione, perché vediamo che, a parte la crescita esponenziale dei contatti, ma ci seguono da tutto il mondo. L'idea di parlare degli stranieri, per gli stranieri, agli stranieri e con gli stranieri, fa sì che il tam-tam sia davvero esponenziale, e quindi abbiamo scoperto, per esempio, che abbiamo 80 lettori dalla Tunisia. Questo cosa significa? Che evidentemente qualcuno dei nostri intervistati o delle persone che hanno contribuito in qualche modo con la loro voce, la loro testimonianza al giornale, ha poi così divulgato la notizia ai suoi parenti, amici, conoscenti che sono tuttora in Tunisia, e questo ha creato appunto una rete. Tutto il mondo, diciamo, abbiamo la soddisfazione di vedere che in tutto il mondo ci stanno seguendo, e questa è una cosa bellissima. Sarebbe stato possibile avviare questa iniziativa, diciamo, senza la rete? Forse mi chiedo anche se avrebbe avuto senso. Ma allora, noi siamo nati, economicamente parlando, intendo. Allora, esatto, noi siamo nati con l'idea di fare una free press. La free press comunque ci sarà, ci stiamo impegnando per questo, e io in particolare vorrei poterla lanciare in primavera, forse a maggio. La free press è uno strumento straordinario perché abbiamo visto, proprio di persona, ma abbiamo visto anche dalle analisi così che abbiamo seguito, che la free press è uno strumento che viene molto letto dagli immigrati, quindi su questo sicuramente vogliamo puntare. Detto ciò, il web però appunto regala, come dicevo prima, tutta grandi spazi, esatto. Grandi opportunità. 30 minuti in cronaca. Un nuovo modo di guardare ai lavoratori stranieri in Italia, un modo anche diverso di raccontarli attraverso un'iniziativa editoriale di cui abbiamo parlato e stiamo parlando con la direttrice di questa iniziativa, Ginevra Battistini, ma anche forse un modo, un interrogativo sulla necessità, diciamo, per gli italiani di conoscere diversamente le persone con cui di fatto convivono tutte le loro giornate. Insomma, abbiamo una sorta di spaccatura, una sorta di separazione nel mondo del lavoro tra tipi di lavoro e quindi nazioni di provenienza. Forse uno dei vostri obiettivi è anche creare dei ponti, delle comunicazioni. Insomma, perché è importante per gli italiani, secondo voi, questa iniziativa? Allora, senz'altro, creare dei ponti, creare uno strumento di conoscenza reciproca, di scambio, senz'altro. Allora, vogliamo anche superare un po' certi concetti per cui ghettizzare gli immigrati non soltanto da un punto di vista, come dire, di appartenenza così nazionale, religiosa, per cui i senegalesi, i marocchini piuttosto che gli ucraini, però appunto tu dicevi lavoratori. Al di là del lavoratore, in genere si dice, quando si parla in maniera positiva dell'immigrato, si dice: ah, ma sono una ricchezza, ma sono dei lavoratori, ma contribuiscono in maniera decisiva allo sviluppo dell'economia italiana. Sono persone. Sono donne, uomini, figli, fratelli, amici, e hanno delle storie da raccontare estremamente ricche, visto che hanno una storia di emigrazione, di immigrazione. Quindi l'idea è, cerchiamo di avvicinarle come persone, che come tutte le persone hanno appunto esperienze più o meno interessanti, hanno storie sicuramente ricche. Queste storie perché devono catturare l'attenzione degli italiani? Prima ci hai detto che avete lettori in Tunisia, insomma il web permette accessi anche lontani, ma gli italiani come reagiscono? Quelli che ci stanno seguendo in questo momento reagiscono molto bene, perché sono sicuramente degli italiani che hanno già a cuore certe tematiche, hanno già a cuore l'idea di una società multietnica solidale, senz'altro, e quindi ci mandano tantissimi commenti entusiastici, ci ringraziano per aver avuto questa iniziativa. L'idea però è appunto di offrire anche agli italiani l'opportunità di conoscere gli stranieri proprio nelle loro vite, nelle loro storie, fare conoscere gli italiani anche i paesi di origine. Si parla parla tanto di globalizzazione, di mondo, ma poi purtroppo in Italia pochissimi parlano di esseri, si conosce veramente poco dei paesi di provenienza, delle culture di provenienza di queste persone. Quindi senz'altro è un giornale che dà delle opportunità di conoscenza estremamente ampie, è anche ambizioso, è un lavoro estremamente ambizioso, perché raccontare il mondo, raccontare le culture di provenienza di queste persone rappresenta una sfida notevole, mi rendo conto. Una sfida decisamente impegnativa. Francesco Bianco, a proposito di figli e nipoti, la seconda generazione, per lo più in piazza abbiamo visto, almeno io ho visto, persone che hanno compiuto il viaggio, come dicono soprattutto in certi paesi africani, il voyage verso l'Europa. Ma l'Italia è fatta anche di una presenza significativa di ragazzi, figli di stranieri nati in Italia e che magari non hanno neanche la nazionalità. Ecco, come vivono questi tempi, questo bacino formidabile di nuovi italiani? Diciamo subito che sono quasi 1 milione, i dati parlavano di 900.000 fino a gennaio, ma ormai si pensa che sia stato ampiamente superato questo dato. Non ci sono in piazza semplicemente perché non si sentono stranieri, perché la stragrande maggioranza di loro, si parla del 70%, è nato in Italia oppure è arrivato in età prescolare, quindi ha fatto le scuole in Italia, è andato in discoteca in Italia la prima volta, insomma ha vissuto solo in Italia, magari frequenta il paese di origine dei genitori, come esattamente succede a un ragazzo italiano che ha genitori siciliani di andare dal nonno a Palermo. La considerazione è la stessa. Noi preferiamo chiamarla cross generation rispetto alla seconda generazione, perché ci piace questa idea che sia la generazione ponte, che unisca la cultura delle famiglie da cui provengono con la nuova Italia, insomma che ci aiutino loro, che stanno in mezzo, a capire meglio come sarà l'Italia, insomma. Ecco, loro sono invece aiutati dalle complessità burocratiche. So che uno dei problemi che tocca appunto questi italiani, che sia cross generation o seconda generazione, appunto, che io, come lei ha detto un attimo fa, come non posso che considerare italiani, eppure per la burocrazia a volte non lo sono, e questo crea anche delle complessità che a noi italiani di nascita e di carta d'identità sembrano inverosimili, ma ci sono. Tra l'altro è una cosa che appunto colpisce molto gli italiani quando la scoprono: chi nasce in Italia in realtà può chiedere la cittadinanza solo dopo che ha compiuto 18 anni, quindi dopo che ha fatto un lunghissimo percorso nel nostro paese, che il nostro paese c'è stato sempre. Loro diciamo che si sentono più internazionali quasi, no? Si sentono cittadini del mondo, e in realtà tutte le statistiche ci dicono che i loro consumi sono molto più orientati verso il mondo anglosassone rispetto a quello italiano. Ascolto musica hip hop, si vestono già come appunto i giovani americani o i giovani inglesi. È il vero fermento forse della nostra giovinezza. Ecco, nei fermenti l'economia, naturalmente il lavoro, ma non solo. Ginevra Battistini, allora quali sono anche i settori in cui emerge la novità culturale portata dall'immigrazione nel nostro paese? Sono moltissimi, per esempio adesso mi viene in mente questa pagina a cui io sono molto affezionata, che si chiama Italiani Strana Gente, ed è un modo simpatico ma molto interessante in realtà di analizzare noi italiani attraverso lo sguardo degli immigrati. Questo ovviamente sono occasioni di riflessione. Per esempio abbiamo la domanda di questa settimana: è in che cosa sei cambiato da quando vivi in Italia? Vengono fuori risposte estremamente interessanti. Loro dicono: ma io mi sento cambiato quando torno nel mio paese, e sono i miei parenti che mi fanno notare che sono cambiato, perché sono più critico nei confronti del mio paese, sopporto meno magari certe questioni legate all'amministrazione della cosa pubblica, per cui per certi aspetti viene fuori anche una difficoltà di appartenenza a un paese piuttosto che l'altro. Non so, non sono più senegalese perché in effetti ho una mentalità più europea, però non sono neanche del tutto italiano, perché poi in Italia non mi si riconosce la mia nuova identità. Ecco Bianco, forse questo elemento dell'identità transnazionale forse è uno dei potenziali, come dire, delle perle che forse in Italia dovremmo catturare un po' di più? Assolutamente, tra l'altro si vede che anche in questo caso da alcune statistiche che, se sono ben seguiti con esperimenti ad esempio nella provincia di Trento, i giovani di seconda generazione sono più bravi a scuola degli italiani, e se ci sono con loro insegnanti magari di sostegno, soprattutto per la lingua, che è la grande difficoltà. Ad esempio gli asiatici sono straordinari nelle materie scientifiche, però magari vengono bocciati perché arrivano quando hanno 7-8 anni in Italia senza parlare italiano. Insomma, opportunità e naturalmente complessità, è, come dire, è uno spazio che si impegna a tenere conto di queste possibilità e di questi cambiamenti. Sì, appunto, quello che volevo aggiungere era proprio questa enorme ricchezza che viene fuori, nel senso, come è sempre stato, nel senso, l'uomo ha sempre, diciamo, l'immigrazione accompagna proprio la storia dell'umanità. Gli immigrati effettivamente hanno una carica in più che, come dicevamo prima, dimostrano sia dal punto di vista economico, ma sia dal punto di vista della voglia di fare, hanno un'energia straordinaria, una capacità di adattarsi anche alle situazioni più difficili straordinaria, hanno anche una potenzialità straordinaria, parlano tantissime lingue, perché arrivano, parlano magari il Wolof piuttosto che il Swahili, piuttosto che l'inglese, il francese, quindi nel futuro rappresenteranno una ricchezza che verrà esplicata, espressa in maniera ancora più forte di quella. Ecco, per un progetto come Mixa questa ricchezza viene sfruttata e come? Allora, questa ricchezza è sfruttata in questo modo. Noi siamo, siamo partiti come un gruppo di italiani, siamo 5 giovani giornalisti che si sono uniti, hanno creato una cooperativa editoriale l'anno scorso e hanno fondato questo giornale. Stiamo raccogliendo una rete, stiamo creando una rete di collaboratori tra i quali ci sono e ci saranno anche degli stranieri. Al momento abbiamo una persona fissa che si chiama Angela Roig, che è peruviana, una giornalista che si occupa della pagina Vita Italiana e racconta, ed è molto interessante, la sua vita italiana, da uno spaccato della società italiana estremamente interessante. Ma nell'arco, riceviamo mail in continuazione, per cui nell'arco dei prossimi numeri, delle prossime settimane, avremo anche, esordiremo anche con altre persone che sono straniere o sono, diciamo, magari anche mixa. Insomma, novità in arrivo. Un'ultima battuta, l'indirizzo web www.mixamag.it. Grazie a Ginevra Battistini, grazie a Francesco Bianco, siamo in conclusione, a Peter Bescapè in regia, radio24.it invece è il nostro indirizzo elettronico per sentire e risentire tutte le trasmissioni, a tutti voi un ottimo fine settimana.